Bene, allora riprendiamo con la serata odierna con Adel Jabbar, le nostre iniziative, i nostri incontri settimanali. La Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che si trova qui al piano terra, è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18, un orario continuato, e si propone come così facilitatrice e promotrice della lettura, di una lettura particolare, declinata a temi locali, ma anche sempre attenta allo scacchiere internazionale. E in questa sera abbiamo appunto un ospite che ci porterà, ci traghetterà su altre dimensioni, e soprattutto però anche diciamo rivolti a quella che può essere anche un interesse verso lo scibile. Questo lo dico perché anche in altre occasioni, e come vi avrò anche modo di raccontare brevemente in questi pochi minuti preziosissimi, ogni volta che abbiamo un'iniziativa noi ci occupiamo di tante cose. Ecco, quindi domani per esempio alle 17 abbiamo un gruppo di lettura che presenterà il libro Bazar milanese tra Romagna e Bolzano, la storia di una famiglia. L'autore sarà con noi ed è Attilio Zammarchi, e saranno presenti insieme a lui le due storiche Sabine Maier e Alessandra Spada. Uno spaccato di storia locale con però legami anche regionali e inserito in un contesto storico molto importante e delicato come la ripresa dopo la Seconda Guerra Mondiale qui a Bolzano e le dinamiche personali e sociali che si sono scatenate. Poi abbiamo legati così alla, diciamo, la mostra degli Etruschi che è in corso al piano di sopra nella sala 1. Avremo un incontro il 21 di gennaio, dove Umberto Tecchiatti, nostro collega, ma anche adesso docente universitario all'Università di Milano, ci racconterà la relazione tra reti ed etruschi. Quindi una conferenza legata alla mostra degli Etruschi, ma con di nuovo un legame territoriale. Sarà tutto da scoprire e vi invito veramente a partecipare il giorno 21, cioè martedì prossimo, alle ore 17:30, sempre qui. E poi ancora la settimana successiva, il 28 di gennaio alle 17:30, sempre di martedì, avremo, in occasione della giornata della memoria, che è il 27 di gennaio, la presentazione di un libro, L'Europa fascista, dal primato italiano all'asservimento del Reich. Quindi verranno presi in considerazione un decennio, degli anni appunto dal 1932 al 1943, e sarà con noi l'autrice Monica Fioravanzo, che è docente all'Università di Padova, ma la moderatrice che accompagnerà la nostra ospite sarà invece Francesca Califano, una professoressa, una docente di Bolzano che conoscete probabilmente già. E infine, poi finalmente anche una svolta narrativa e poetica. Questa volta l'occasione ci viene offerta da Cristina e Matà, insieme a Renato Sklaunic, che presenteranno Der Innere Kreis, il cerchio interiore, nella giornata di mercoledì, il 29 di gennaio, alle ore 17, sempre all'interno del nostro gruppo di lettura, a cui potete partecipare liberamente. Ecco, lo consideriamo un modo diverso di affrontare e di condividere in maniera trasversale l'esperienza della lettura e della riflessione, e di partecipare liberamente con le proprie opinioni. È un gruppo molto, diciamo, discreto, quindi siete liberi di raccontare e di dire quello che vorrete, non uscirà. È sempre molto ben frequentato e vi invitiamo a partecipare, a provare questa esperienza del gruppo di lettura. E finalmente presento il nostro ospite che già conoscete, abbiamo avuto già una prima puntata in autunno, vero Adel? E questa volta ritorniamo ad affrontare questi argomenti scottanti, sempre con lo sguardo attento e la capacità di avere una visione molto ampia e poi di scendere nel particolare, come sa fare Adel nell'ambito della geopolitica e soprattutto dello scacchiere del vicino Oriente. Lascio subito la parola al nostro ospite, vi ringrazio dell'attenzione, ma soprattutto vi invito a partecipare alle nostre iniziative e tornare anche in biblioteca durante la settimana. chi non avesse la possibilità di seguire le nostre iniziative sa che sul sito ci sono i podcast e quindi si possono riascoltare le conferenze e le presentazioni anche in differita. Grazie Adele e buon anno a tutti voi. Grazie alla dottoressa Trevisan per la presentazione, ma soprattutto per l'ospitalità, soprattutto poi qui ci vuole un'ospitalità naturalmente particolare, perché trattare temi, come diceva lei, diciamo, dirle difficili, spinosi, io sempre cerco di, anche trattando temi, perché poi ognuno nella vita ha un destino e il mio destino mi ha portato ad occuparmi di temi spesso delicati, complicati, ma credo che sia necessario poi rifletterci sopra, perché comunque ci accompagnano, ci condizionano, influiscono il nostro pensiero, i nostri orientamenti, e quindi è giusto anche informarsi e farsi più, no, avere più fonti di informazione sicuramente aiuta ad avere maggiore consapevolezza e forse anche maggiore equilibrio nel trattare certi temi. E quindi io spero che voi abbiate iniziato l'anno 2025 con dei pensieri positivi, e in compagnia anche magari di persone care e con cui ci sono particolari rapporti affettuosi, che non guasta nei momenti di passaggi e delle particolari, insomma, della nostra vita e del nostro tempo. E adesso io mi siedo, posso? Perché poi... Grazie. Quindi io vi ringrazio davvero, ma un ringraziamento sentito, perché credo, come piace a me ripetere questa cosa qua, ascoltare sempre un atto di cortesia e di grande generosità, soprattutto quando si parte da terreni diversi, da sensibilità diverse, da premesse diverse, quindi richiede un sforzo non da poco. Quindi vi ringrazio anche per un eventuale dibattito, domande, considerazioni alla fine del mio intervento. Vedo che questa volta alcuni volti sono nuovi, perché noi abbiamo avuto, come diceva la dottoressa Trevisan, un incontro in novembre, credo in novembre, abbiamo trattato, diciamo, anzi, sono partito da lontanissimo in termini di processi storici, al fine era di evidenziare le connessioni, i legami tra i diversi contesti, che a volte nella nostra quotidianità ci concentriamo sul presente, no? Sui fatti, sull'attualità, mentre per comprendere anche i fatti c'è bisogno, a me, anche quanto per motivi di miei studi, sono sociologo, quindi seguo queste tematiche, per altre ragioni anche professionali, è importante collocare una serie di fatti all'interno di processi storici. I processi storici ci danno in qualche modo elementi maggiori per poter leggere, che ha interesse, leggere i fatti che accadono. Allora sono partita da lontano, dicevo, e quando le due Americhe non c'erano, c'era l'Asia e l'Europa e l'Africa, e quindi i rapporti allora erano molto intensi tra questi, le connessioni erano forti, i legami erano forti, gli scambi forti, quindi più scambi, più vicinanza, anche più frizioni, perché poi la frizione significa, no? E quei tentativi di gruppi, anche di singoli, di delimitare il proprio territorio, di esercitare dell'influenza, e anche perché quando si instaurano degli interessi comuni, la problematicità di gestire l'interesse comune diventa più difficile, perché se fosse distanze geografiche, diversità nelle visioni del mondo, molto probabilmente i problemi sono minori. I problemi diventano più sentiti quando ci sono vicinanze, quando si instaurano interessi comuni, quando le parti contendono, no? Come dire, ognuno si dice cerca di tirare l'acqua al suo mulino, no? Quindi questo capita chiaramente, e ogni giorno nella vita, anche nei singoli, no? Nei nostri posti di lavoro, in famiglia. Allora, oggi sono più didattico, l'altra volta sono stato molto narrativo, ho storicizzato, ho contestualizzato, questa volta sono più didattico, quindi ho preparato delle slide per arrivare a raccontare la storia poi di fatto della Palestina, di quello che accade. Allora, vedete, questo è l'impero ottomano. L'impero ottomano è stato uno dei imperi, come l'impero romano, sono quegli imperi che avevano territori, aree di influenza in Asia, in Africa, in Europa. Quindi l'impero romano è stato aveva, insomma, dominato, in qualche modo ha esercitato influenza in varie parti dell'Africa, del nord soprattutto, dell'Asia dell'Ovest e naturalmente in Europa. E l'impero turco, l'impero ottomano, mano a mano, vedete questi colori, comincia a perdere, no, dal 1800 comincia a perdere alcuni territori in giallo, poi quelli color mattone in secondo momento, poi alla fine, intorno alla Prima Guerra Mondiale, perde i territori di colore nocciola e poi, dopo la Prima Guerra Mondiale, perde anche quelli di colore nocciola, e per arrivare poi al 1924 ad avere la Turchia attuale, col colore giallo-ocra. Non so, abbiamo le stesse visioni di colori? E quindi, il colore ocra, la Turchia attuale. E quindi, nei territori qua, vedete, un po', come dire, nocciola chiaro, no? Quel arco, no? La mezzaluna fertile. E quelli erano possedimenti naturalmente ottomani, facevano parte, amministrati dall'impero ottomano. E questo territorio, Fabrizio, per favore, qua non vedo io. Ah, devo andare qua, giusto? Grazie. Allora, questi territori qua, dopo la Prima Guerra Mondiale, vengono spartiti. Questo è qualcosa simile alla nostra realtà qua, perché a volte è importante avere delle connessioni. Anche questo territorio qua, dopo la Prima Guerra Mondiale, ha acquisito altra configurazione politica, giusto? Nello stesso periodo, anche lì, l'impero ottomano, insieme all'impero austro-ungarico, sono usciti perdenti, e quindi la potenza vincitrici, Francia, Inghilterra soprattutto, c'era anche la Russia naturalmente zarista, però con la rivoluzione di ottobre la Russia si ritira da questa alleanza e denuncia gli accordi segreti, il trattato di Sykes-Picot, Sykes inglese, ministro degli esteri inglese, e Picot francese, che hanno deciso il futuro di questa area, di come spartirla tra di loro. Per cui, come vedete qua, Siria e Libano passano per la Francia, l'Iraq, Giordania e la Palestina diventano sotto l'influenza o il dominio, no? Veniva chiamato in parole gentile i mandati, no? I mandati, come dire, nel gergo, come un tutor, no? Che accompagna le persone in difficoltà, in qualche modo, no? Quindi vengono presi in considerazione questi, naturalmente, come ben potete immaginare, francesi e inglesi, quanto è tratto segreto, non mica hanno trattato più di tanto, hanno coinvolto la popolazione locale, però gli inglesi soprattutto hanno creato delle alleanze, prima, con, no, Lawrence d'Arabia e la sua funzione di creare delle alleanze con alcune popolazioni, tribù importanti come la famiglia arabia saudita attuale, come la famiglia hashimita che governa la Giordania, quindi hanno già instaurato dei rapporti di alleanze in funzione anti-ottomana. Sconfiggere l'impero ottomano, i sauditi, i hashimiti, no? Anche se le promesse per entrambi erano diverse, perché per i hashimiti che governano oggi la Giordania era di governare il mondo arabo, almeno la parte orientale del mondo arabo. E per i sauditi invece l'Arabia Saudita, solo che poi, insomma, la vicenda della politica è un terreno molto sismico e fluido, quindi la famiglia saudita ha avuto il meglio nella prima guerra mondiale, anzi negli anni 20-30 poi cacciano via la famiglia hashimita che era anche erano residenti, questi gli esponenti della famiglia hashimita vengono cacciati via dall'Arabia Saudita verso la Giordania, e quindi la Giordania diventa, diciamo, un emirato dato alla famiglia hashimita, quindi viene spartita la zona così. Dopo Sykes-Picot succede un'altra cosa. Questo siamo nel 1916. Nel 1917 il ministro degli affari esteri inglese Arthur James Balfour, che era conosciuto anche per i suoi, diciamo, atteggiamenti antisemiti, però il quale dà una dichiarazione a Lord Rothschild, che era rappresentante del movimento sionista, che quasi era appena nato, perché è nato nel 1897, quegli anni lì. Le dà questa premessa, no, la premessa di Arthur James Balfour, nel 2 novembre 1917, per dare la Palestina al movimento sionista. Allora l'Inghilterra naturalmente controllava l'area, in quel periodo lì, per la verità, diciamo, i flussi dei migranti ebrei è già iniziato da un po' di tempo, già della seconda metà, in grosso modo, del 1850 ha cominciato, non in qualche modo, a volte clandestina, a volte in forme diverse, a volte anche tramite l'impero ottomano, tramite anche la corruzione di alcuni amministratori del territorio della Palestina, di governanti ottomani, a volte anche quando alcune famiglie proprietari terrieri delle Palestine erano anche d'origine straniera, non erano proprio palestinesi, e quando hanno cominciato a intuire la decadenza dell'impero hanno cominciato a vendere le terre, e l'hanno venduta naturalmente alle più, no, a coloro che offrivano di soldi, ma questo comunque rimane percentuali del territorio palestinese, una percentuale molto ridotta, anzi nel massimo dello sviluppo di questa forma, diciamo, di prendere un possesso del territorio, non ha superato il 6% del territorio della Palestina. Allora, naturalmente, i palestinesi hanno cominciato a accorgersi che qualcosa non va in questa migrazione. Cominciano a accorgersi che, di fatto, c'è una popolazione europea, perché di fatto venivano dall'Europa, cominciano a abitare in quel territorio, cominciano a organizzarsi, cominciano a darsi un'organizzazione, altro che dei migranti, diciamo, normali, ma un'organizzazione sociale, produttiva. Quindi comincia a essere una presenza visibile. Allora, di fronte a questo, naturalmente, sono state proteste, manifestazioni, disobbedienza, varie cose negli anni 20, alle 30, 36, dalle 36, 1936, 1939, i palestinesi si ribellano, però c'era l'esercito inglese, domava queste ribellioni, però la ribellione del 1936-1939 era una ribellione molto forte, ha durato 3 anni, è stata soffocata dall'esercito inglese. Comunque, per non dilungarmi in questi dettagli, gli inglesi si comportavano come una forza di occupazione del territorio. Allora, cosa succede? Succede che l'Inghilterra, qui, perché io vorrei, mi sono, come dire, fissato in questa serata qua, fissare tre momenti cruciali della politica, perché la questione palestinese non riusciamo a comprenderla senza capire, a mio parere, i passaggi fondamentali nelle dinamiche geopolitiche del mondo. Perché la Palestina non è una questione né locale, né una questione di una diatriba tra due popoli, è una questione a una portata internazionale, come avete visto, la spartizione, quindi della prima guerra, la promessa inglese, quindi è una questione di portata internazionale. Per comprenderle è fondamentale capire questi tre passaggi. Il primo passaggio è la prima guerra. Quindi i palestinesi si trovano a dover vivere in un territorio occupato dagli inglesi, e gli inglesi gestivano anche l'immigrazione, dei migranti che venivano da fuori. Quindi avevano poca voce in capitolo, fondamentalmente, la popolazione locale. Quindi questo primo passaggio geopolitico, quando insiste sul fatto geopolitico, questo primo passaggio geopolitico, la fine della Prima Guerra Mondiale, ha significato l'inizio della perdita della terra dei palestinesi. E questo è un passaggio fondamentale. E quindi arriviamo, poi i palestinesi naturalmente disobbedienze, resistenze, lotte armate, hanno provato tutto, scioperi, no? Però naturalmente tutto questo non ha avuto, diciamo, dei risultati positivi per i palestinesi. Quindi nella seconda guerra, quindi arriviamo all'altro passaggio, la seconda guerra, anche qui i palestinesi escono perdenti. La seconda guerra mondiale che cosa vuol dire? Vuol dire l'inizio della competizione tra i due blocchi, giusto? Siamo in Europa, i due blocchi, dopo la seconda guerra si instaura la NATO da una parte, il patto di Varsavia capeggiato dall'Unione Sovietica, e questi due blocchi, come i francesi e inglesi prima, naturalmente questi due blocchi cercavano di contendere anche questo territorio, o almeno avere dell'influenza su questa area qua. L'Unione Sovietica voleva trovare nuovi adepti nella sua, come dire, visione anti-imperialista, anticapitalista, si diceva così. E quindi quel momento lì, dopo la Seconda Guerra Mondiale, molti popoli arabi, asiatici, Africa, si sono trovati ad essere incoraggiati per lottare contro il colonialismo francese e inglese. Quindi questa è la lotta, il desiderio di emancipazione anticoloniale di popoli dell'Africa, dell'Asia e di altri contesti, sono diventati, diciamo, un'opportunità per l'Unione Sovietica di giocare su questo, per avere poi di fatto degli alleati locali. Però questo naturalmente rende l'Inghilterra e la Francia, alla fine delle loro, soprattutto l'Inghilterra alla loro fine dell'impero, molto in allerta. Allora, quindi l'Inghilterra voleva continuare l'esercizio, no, di influenze sull'area, quindi perché ancora l'Iraq, il paese dove io sono nato, la Giordania e la Palestina erano ancora sotto il controllo inglese. E quindi, però, la popolazione araba in Iraq o in Giordania e in Palestina stessa, naturalmente, erano contrari alla presenza, al perpetuare del dominio inglese sulla zona. E quindi l'Inghilterra voleva che ci sia un'area che rimanga fedele all'Inghilterra, al disegno inglese. Quindi gli alleati diventano in qualche modo la popolazione, che poi diventano israeliani, la popolazione ebraica che ha avuto, quindi il movimento sionista fondamentalmente, non tutta l'ebraica, sia chiaro, il movimento sionista che ha avuto il beneplacito inglese per la formazione, è stata donata, assegnata questa terra al movimento sionista. Quindi il movimento sionista diventa un alleato formidabile per l'Inghilterra. Questa è una cosa che sempre le potenze coloniali, prima di uscire da un territorio, naturalmente cercano di lasciare qualche come dire, aree legate ai loro interessi. Per esempio, apro parentesi, in quegli anni lì anche inizia Gandhi la sua lotta anticoloniale. Dopo la Seconda Guerra Mondiale l'India conquista l'indipendenza, però gli inglesi, l'autorità inglese, hanno sponsorizzato la divisione dell'India, hanno sponsorizzato il Pakistan, e il Pakistan rimane ancora oggi legato all'area di influenza inglese. Quindi questa è una dinamica, vuol dire, è un dato che ha fatto parte, che fa parte, no, della gestione delle relazioni internazionali. Allora la Palestina diventa l'area molto preziosa. Però la cosa interessante e curiosa è che l'Unione Sovietica, anche lì, perché molti degli sionisti che sono andati in Palestina erano dell'ex Unione Sovietica, dell'Unione Sovietica, quindi parlavano russo, no? Avevano anche ideologia socialista. Quindi la Russia, l'Unione Sovietica, scusate, allora cercava a sua volta di coccolare alcuni esponenti del movimento sionista in Israele. Per cui l'Unione Sovietica, nonostante che simpatizzava ai movimenti anticoloniali, però in quel istante lì, l'Unione Sovietica è stata forse il primo, o comunque insieme agli Stati Uniti, sono stati i primi paesi a riconoscere Israele nelle 49 alle Nazioni Unite. Quindi l'Unione Sovietica aveva questo desiderio di trovare, grazie alle origini russe, no, grazie alle simpatie, al socialismo, all'ideologia socialista in alcuni settori dello sionismo, pensava di poterli, no, tenerli vicini. Però questo calcolo naturalmente non ha funzionato. Però la Russia ha mantenuto, l'Unione Sovietica ha mantenuto rapporti con Israele fino al 67. Però faccio nel 56, a proposito di geopolitica, nel 56 Francia e Inghilterra insieme a Israele invadono l'Egitto a seguito della nazionalizzazione del canale di Suez. Il canale di Suez è un canale strategicamente assolutamente di primaria importanza perché collega l'Europa, l'Africa, l'Asia. Quindi l'Inghilterra assolutamente insieme alla Francia non volevano perdere questo canale di comunicazione. Quindi invadere l'Egitto insieme alla Russia. Altro paradosso della storia che gli Stati Uniti, che era contrario all'Unione Sovietica, che ha cominciato a entrare in quell'area lì, però gli Stati Uniti ha preso una posizione contraria all'invasione. Sembra un paradosso, no? Fanno parte dello stesso schieramento, fanno parte della NATO, la Francia ancora non faceva parte della NATO, ma l'Inghilterra e gli Stati Uniti, però l'Inghilterra e gli Stati Uniti prende posizione contro un suo alleato, partner della NATO, l'Inghilterra. No? Ha espresso una posizione contraria all'invasione anglo-francese e israeliana del territorio e chiede allora di ritirarsi dei territori occupati allora. Uno dice perché? Perché semplicemente dopo la Seconda Mondiale gli Stati Uniti hanno voluto affermarsi come unica potenza mondiale. E quindi questo è stato uno forse degli ultimi atti che la Francia e l'Inghilterra si mettono da parte e cominciano a essere, come dire, sotto l'ala protettrice, soprattutto l'Inghilterra, degli Stati Uniti. E quindi in questa casa qua per dire i giochi non sono mai coerenti, no? I giochi nella politica, nelle geopolitiche sempre sono, le geopolitiche è sempre un terreno sismico, sismico, mai stabile. E faccio un passo indietro. Quindi l'Inghilterra quando si ritira della Palestina, perché ancora stiamo parlando di Palestina, perché anche i primi sionisti che arrivavano in Palestina avevano una carta d'identità, un tesserino Palestina, no? Fino al 48. Il 48, nel maggio 48, dopo il ritiro inglese, l'autorità sionista proclama lo Stato israeliano, 15 maggio 48. E a seguito di questo inizia la prima guerra cosiddetta araba israeliana. Però tenete presente che araba israeliana vuol dire l'Egitto, la Giordania, l'Iraq, tranne la Siria. Questi paesi che hanno partecipato alla guerra erano tutti sotto il dominio inglese, anzi i loro eserciti erano governati dai colonnelli generali inglesi. Spiego la contraddizione, paesi sotto il dominio inglese naturalmente non erano particolarmente convinti a fare una guerra contro un paese legato alla sfera occidentale, perché anche questi governi erano legati ai governi, no, alla sfera occidentale. Perché l'hanno fatta? Perché, come dicevo prima, perché c'erano i popoli asiatici, africani, arabi, in un pieno di ebollizione, si dice, no? Rivolte anticoloniali, perché erano costretti, l'autorità governativa erano costrette a fare guerra di movimentazione più che di liberazione, per dimostrare ai loro popoli che siamo anche noi, no, in grado di affrontare, no, lo schieramento occidentale. Di fatto il 48 perdono, perché l'esercito non erano preparati, i capi dell'esercito erano colonnelli inglesi, Allenby, no, per esempio, che è uno dei nomi famosi, per cui era una guerra di movimentazione. Il 48 No. Fabrizio, per favore, ho un slide che mi ha saltato. Per tornare indietro. Aspetta. Ce le sto facendo. Grazie. No, c'è uno che non... Ah. Allora, è chiaro queste cartine? Allora, questa è una cartina, spiega bene cosa vuol dire la Palestina, la gialla di là. La Palestina durante la guerra premondiale, era tutta gialla, era territorio palestinese. Poi, io non vedo qua i numeri, e qui le zone verdi, vedete, macchiato nord, nord-est, cominciano ad essere territori occupati da colonie sioniste, perché era un movimento sionista, gestito dal movimento sionista, e questo nel 40, non vedo qua, 46, e poi la spartizione, ci sono triangolo, specie di triangolo nord della Palestina, attualmente Israele, il West Bank attuale, e Gaza era un territorio più grande della fascia di oggi. Questo è il 47, in base alla spartizione, al piano di spartizione deciso dall'Assemblea delle Nazioni Unite a seguito del ritiro inglese. Quindi, però, la guerra del 48, già i palestinesi perdono ulteriore territorio. Il triangolo sopra viene occupato da Israele, ormai Israele è lo Stato, e perde anche Gaza, da questa fascia diventa più piccola. Chiaro? Poi, nel 67, la Palestina... nel 67 viene occupata qua Gerusalemme, perché Gerusalemme era est e ovest, qua viene occupata nel 67 anche Gerusalemme est, e poi l'ultima, la Palestina attuale, quella giallina, no? Poi vediamo. Quindi nel tempo la prima guerra fa perdere territorio ai palestinesi, la seconda guerra gli arabi pensavano che fosse il momento giusto per rivendicare i palestinesi i loro propri diritti, invece anche lì una guerra perdente, e poi il 67 anche, e poi arriviamo più o meno a questa attualità, e qui un'altra cartina dove il piano di spartizione della Palestina, quell'area grigia, era la Palestina per i palestinesi, insomma lo Stato palestinese, invece quelle dovrebbe essere, voi vedete forse meglio di me le scritte, no? Il viola, il viola scuro, no? Sono colonia, quelle scure sono le colonie, invece quelle viola chiaro sono i territori dati, assegnati dalle Nazioni Unite al movimento sionista, che diventa poi lo Stato di Israele. Nel 67, tra del 48 al 67, vedete l'incremento della questa macchia, la macchia che vedete in nero, l'incremento della colonizzazione. Sì, no? Chi vede? Sì. Ah, scusa, sì. I puntini neri sono i villaggi palestinesi che sono stati scomparsi, distrutti, e la popolazione allontanata. E, mi seguite? Allora, nel 67 Israele occupa Sinai tutta, il Golan e parte della Giordania, quindi i paesi arabi sono stati sconfitti in modo assolutamente. Nessuno immaginava una sconfitta del genere. E qui poi, naturalmente, il Golan, l'altura del Golan ancora in Siria, questi giorni qua, Israele ha esteso, no, approfittando delle cadute del regime di Assad, per estendere la sua, diciamo, ha occupato tutto il Golan storico. E dal Sinai si è ritirata a seguito degli accordi con il presidente Sadat, però il deserto del Sinai, di fatto, ancora Egitto non ha una sovranità totale. Per muovere eserciti o cose nel Sinai, l'Egitto deve chiedere il permesso ad Israele. Quindi rimane comunque una sovranità limitata. Allora, arriviamo, prima data, prima guerra, seconda guerra, un'altra data importantissima nelle geopolitiche, che ha rappresentato un'ulteriore sconfitta dei palestinesi, qual è? La caduta del muro nell'89. L'Unione Sovietica non c'è più, quindi quel poco che l'Unione Sovietica poteva garantire ai palestinesi come sostegno, almeno diplomatico e politico, sparito. Quindi i palestinesi rimangono scoperti, non avevano più nessuna sponda. L'Iraq va a fare la sua avventura bellica occupando il Kuwait, esce sconfitto e inizia la perdita anche di quei pochi governi che potevano in qualche modo alzare la voce per dire: noi siamo in qualche modo vicini al popolo palestinese. Quindi la caduta del muro perde, in pratica fa perdere ai palestinesi una ultima sponda. Cosa significa questo? Significa che l'autorità palestinese, ancora non c'è il Palestina, alla fine i palestinesi si trovano costretti ad accettare, no, qualsiasi compromesso, accettare qualsiasi compromesso. Qual è il compromesso? Andare nel 91 alla conferenza di Madrid. Alla conferenza di Madrid, poi non poteva neanche essere rappresentare se stessi. Sono passate le loro rappresentanze tramite la Giordania. Però segretamente alcuni esponenti dell'OLP, il Movimento di Liberazione Palestinese Capaciate di Arafat, hanno iniziato un negoziato segreto ad Oslo, in Norvegia. Quindi ad Oslo nasce un nuovo trattato, l'accordo di Oslo, dove i palestinesi rinunciano, ancora a tante altre, diciamo, porzioni del territorio. Vediamo qui il famoso linea verde. La linea verde è quella che delimitava, diciamo, il West Bank del territorio israeliano, quella che dove c'è la linea verde. Però col passare del tempo, con il crimento delle colonie che si sono infiltrate in tutto il tessuto territoriale del West Bank, la colonia, in pratica, vedete, c'è una linea rossa. Questa linea rossa, molto più lunga della linea verde, no? Che delimitava il West Bank. E la linea rossa vuol dire il muro, vuol dire filo spinato, vuol dire checkpoint, vuol dire ogni tipo di ostacolo, no? Per delimitare il territorio palestinese della colonia, ma anche i territori palestinesi tra di loro. E quindi, e questo vedete, il, e poi c'è naturalmente in questo, vedete queste, come dire, questo territorio, in base al trattato di Oslo, viene diviso in tre pezzi. Un'area palestinese, area A, soprattutto l'area edificata, quindi la città, centri urbani. Queste qua sono controllate sia dal punto di vista civile che militare dalle autorità palestinesi. Area B, civile, va all'autorità palestinese, militare Israele. L'area C, che doveva passare, ma stiamo parlando del 93, sono passati più di 30 anni, doveva passare tutto questo all'autorità palestinese. Invece l'area C è nelle mani ancora civile e militare israeliana, ma non solo, oggi Israele può entrare anche nell'area A a compiere azioni. E poi vedete queste cerchie blu. Questo è il consumo d'acqua. Vedete, c'è un cerchio, poi al mezzo c'è un cerchio blu. Ci sono delle percentuali, ma le vedete le percentuali? La percentuale del consumo di acqua per l'israeliano e il consumo di acqua per i palestinesi in varie aree. L'area blu magari hanno un tot litri in più. Poi ci sono di cerchi, come vedete, più piccoli, dove la disponibilità dell'acqua è sempre più ridotta. E poi ci sono aree limiti comunali, perché le colonie, quando vengono costruite, hanno bisogno anche di territorio intorno. Quindi limite comunale della colonia israeliana è controllo esclusivo israeliano. Quindi questa realtà, oggi in cui vivono i palestinesi, qui il controllo delle risorse idriche palestine, come Israele, sono paesi di scarsa disponibilità idrica, quindi il consumo medio nazionale in Israele è 300 litri al giorno, nell'area blu piena palestinese 162, 100 soglie giornaliere raccomandate dell'Organizzazione Mondiale della Salute. E poi alcune aree della Palestina solo il 42%, quindi neanche la metà della soglia raccomandata dell'OMS. Poi ci sono sorgenti palestinesi acquisite attraverso il muro, quando è costruito il muro, i vari filo spinati e altri. E poi ci sono sorgenti palestinesi a rischio di acquisizione. Quindi qua la lotta non è solo per l'acqua, per la terra, ma anche per l'accesso all'acqua. Allora, questa è la realtà di oggi. E poi, nel tempo, la comunità internazionale ha cercato di affrontare, in qualche modo affrontare una parola grossa, la prima risoluzione della risoluzione, la prima risoluzione 181 del 29 novembre 47, quindi che ha era, come dire, la risoluzione che sancisce la spartizione della Palestina di cui abbiamo parlato prima, la risoluzione 194 del 48 che sancisce il diritto del ritorno di profughi palestinesi che sono stati cacciati via, la risoluzione 242 del 67 che è del Consiglio di Sicurezza, quindi dovrebbe essere vincolante queste più, perché quelli dell'Assemblea, diciamo, non dovrebbero, anche se poi Israele in base ad una risoluzione dell'Assemblea si è dichiarato uno Stato indipendente. Quindi la risoluzione del 242 del 67 del Consiglio di Sicurezza, quella ribadisce il diritto al ritorno, ribadisce l'obbligo a Israele di ritirarsi dai territori occupati E poi la risoluzione 273 del 49, ammissione dell'ONU, Israele, quando è stata ammessa nelle Nazioni Unite, Israele si impegna a rispettare la risoluzione dell'ONU e dal momento della sua ammissione alle stesse, come aderire ad un'associazione, ne deve rispettare naturalmente, no, lo statuto. Però qui io non voglio fare l'elenco, perché le risoluzioni sono decine, decine, decine, però non hanno avuto nessuna applicazione. E soprattutto, queste le non applicazioni sempre sono stati, naturalmente, gli Stati Uniti a impedire l'applicazione di qualsiasi risoluzione. Allora, per questo torno a dire che per comprendere la questione, il conflitto israelo-palestinese, è importante capire i processi, la dinamica geopolitica, perché questa è una questione geopolitica internazionale, non è una questione, no, di due popoli, che i due popoli sono entrambi vittime del gioco, no, geopolitico. Entrambi, poi vabbè, c'è la simmetria che caratterizza l'uno e l'altro, il rapporto tra l'uno e l'altro è chiaro, però entrambi, a mio parere modestissimo, sono vittime di una dinamica in cui si sono trovati, ma loro malgrado, dentro. Come uscirne banalmente? Applicare la risoluzione delle Nazioni Unite. Ma la risoluzione delle Nazioni Unite, le geopolitiche, non vuole che siano, che vengano applicate. Perché il disegno, perché nella relazione internazionale il disegno di destabilizzazione di alcune aree fa parte del gioco delle, no? Cioè noi nella retorica, me compreso, naturalmente la dignità delle persone, i diritti umani, la stabilità, il benessere, tutto questo, no? Abbiamo questo bagaglio, zaino, no? Di parole, però nei calcoli della politica alta, i calcoli sono altri. Quindi la destabilizzazione di questa area, ma è di tante, perché poi è turno, no? E fa parte del disegno geopolitico internazionale. Come riesce a mettere fine a questa destabilizzazione? Naturalmente dipende dai rapporti di forze tra gli attori importanti che gestiscono le situazioni in base alle loro convenienze. Quindi questo è un problema per cui noi, nel nostro mondo, non è solo questa area, tante aree nel mondo molte zone del mondo sono caratterizzate da un equilibrio precario. Non andare lontano. L'ex Jugoslavia è un equilibrio precario. La Bosnia, il Kosovo, cos'è che ha risolto? Oggi, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, tutta l'area destabilizzata. Quindi di aree destabilizzate, l'Africa è quasi tutta destabilizzata. Quindi la stabilizzazione apre gli spazi, lascia gli spazi aperti per i giochi dei grandi attori, medi, io dico piccoli, piccolissimi e bonsai, perché di questa destabilizzazione molti che guadagnano, anche i piccoli gruppetti, si aprono mercati, no? Mercati di ogni genere, no? Mercati della violenza, mercati delle armi, mercati del contrabbando, mercati dell'immigrazione clandestina, mercato dei rifiuti, no? E quindi più destabilizzazione e più aria di governate da stati fallimentari. Stato fallimentare vuol dire che non controlla il proprio territorio. E ci sono dentro diversi attori locali appoggiati da una potenza all'altra che giocano guadagnando qualcosa, come in Italia medievale, no? Principi, vescovi e principi si prendevano gruppi mercenari, poi questi gruppi mercenari crescono il loro potere e diventano a loro volta, rivendicano titoli di principi, di baroni, di, no? Così la storia. Quindi la storia di Ghibellini, di Guelfi, oggi le possiamo portare, non è solo in Toscana, a livello mondiale, voglio dire, no? Perché il mondo si è rimpicciolito. Quindi gli interessi in gioco sono tanti. E l'area araba, perché poi noi quando parliamo Palestina e Libano, leggo, perché questa area è un'area araba fondamentalmente, a maggioranza araba, stata governata per secoli da grandi potenze di allora medievali, no? E poi è passata nel 1500 un po' nella mano dell'impero ottomano, però ha mantenuto una sua coesione culturale, linguistica, religiosa in qualche modo. Questo mondo arabo controlla i mari del mondo, l'Atlantico, Mediterraneo, lo stretto di Gibilterra, canale di Suez, il mare arabico, il mare indiano, e il mare rosso, il golfo. Quindi una realtà strategica dal punto di vista del petrolio, del gas, dei passaggi. No? Quindi la potenza, giustamente, grandi, medie, piccole, ognuno pensa alla propria sicurezza. E la sicurezza non vuol dire sempre la sicurezza di avere di notturbini o forze d'ordine, la sicurezza alimentare, la sicurezza energetica, la sicurezza della comunicazione, oltre anche il prestigio di avere aree di influenza. Questo vale per la Russia, vale per la Cina, vale per l'India, vale per gli Stati Uniti, per la Francia, per l'Inghilterra, per la Turchia, per l'Iran, per i gruppuscoli che ci sono in quell'area lì, che, no, cercano di, come dire, tirare un pochino d'acqua al proprio mulino. Per cui noi oggi abbiamo aree stese del mondo, no, in cui piccoli gruppetti esercitano un controllo su vaste aree del territorio. Pensate a tutto il sud del Sahel, la Libia, l'Iraq, la Siria, il Libano, Somalia, Sudan, cioè qua davanti il Congo, no? E quindi queste, perché insisto, io dico, noi possiamo comprendere o cominciare a comprendere e renderci conto qual è il gioco c'è dietro la questione palestinese israeliana. È un gioco geopolitico. Un gioco geopolitico in cui gli attori sono tanti, con visioni diverse, con interessi diversi, con meccanismi, con rapporti di forze diverse. Quindi rimangono questa area sempre poi, no, fluide, sismiche, in cui questi attori intervengono a loro piacimento. Per cui il discorso non è perché insisti sulla storia geopolitica? Perché a volte diventa giusto, c'è anche un ragionamento etico, c'è un ragionamento anche di diritto, no? Tutte sono da prese in considerazione, però un ragionamento etico, come un ragionamento normativo, come un ragionamento politico, tutto va inserito dentro in quale dinamiche geopolitica. E oggi le situazioni sono sempre più gravi, perché la Russia vuole ripristinare una parte della sua gloria, la Cina. Pensate che noi abbiamo oggi delle contraddizioni. Djibouti, conoscete Djibouti? Sapete dove è Djibouti? Djibouti è nel Corno d'Africa. Piccolo paese, in pratica un condominio, piccolo, piccolissimo, non so quanti basi militari americane e straniere ci sono a Djibouti. Per cui ormai anche gli schieramenti, una volta aree sovietica, influenza sovietica, aree influenza statunitense, oggi non c'è neanche questo. Nello stesso posto troviamo, come la Siria, basi militari americane, basi militari turche, basi militari russe. Cioè, oggi il contendere è diventato veramente un ginebraio, si dice. Per cui in un paesino Djibouti già c'è un parametro, anzi un indicatore per capire in quale situazione si trova. Un territorio piccolo così vive in pratica della presenza delle varie basi militari, no? Straniere. Quindi qui la questione oggi, qual è la domanda? È la domanda, certo che c'è una tragedia in Palestina, certo c'è terrorismo, certo che c'è violenza, ma questa è in una dinamica terribilmente violenta. Allora, come mettere fine a questa? Questa è la domanda esistenziale. Chi ha interesse di mettere fine a questo? Oggi, un attore, perché, come dicono gli americani, studiosi americani lo dicono, dice, gli europei di solito hanno il vanto di aver vissuto 70 anni di pace. È vero? Però dice, non è stato per la bravura degli europei. Questo è stato grazie all'equilibrio tra Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che hanno deciso che questa area va spartita e pacificata. Infatti, dopo la caduta del muro, abbiamo la Jugoslavia, l'Ucraina, tutti i subuli, oh, presenti e futuri nell'est europeo. E chissà cosa succederà anche da questa parte qui, perché il crescere di movimenti nazionalisti, identitari, comunitaristi, che rivendicano purezza, in giro per il mondo oggi siamo pieni di movimenti che rivendicano purezza comunitaria e identitarie. Questa è una miccia pericolosissima. Non è un scherzo, perché in un fallimento anche delle normative che è stata conquista, no, dopo la Seconda Guerra Mondiale, di diritti umani e della pace, oggi è andato per il cammino, come si dice, no? Allora quale oggi l'ipotesi per governare in un mondo in subbuglio? La forza nella storia non ha mai risolto un conflitto, ha acuito i conflitti, ha prodotto più rancore e più violenza. Anche il debole oggi non sta zitto. Abbiamo visto l'Afghanistan. Quindi non è quanto volume di cannoni, di bombe, di tecnologia. Io mi ricordo che ho avuto un professore a Trento che in quegli anni è andato a visitare l'Afghanistan. È un uomo, possiamo dirle, ideologicamente di centro, no? Un uomo che appartiene, insomma, all'establishment, quindi non è un pensiero critico o chissà che uno va a vedere, no, il pelo nell'uovo. Quando è arrivato in Afghanistan, un articolo che mi ricordo è stato pubblicato, purtroppo non lo trovo più, sul giornale L'Adige, dice, ma come facciamo noi occidentali ad andare in un paese dove le persone camminano scalzi in alte montagne su ghiacciai? E noi siamo contenti di avere i caschi, ogni tipo di tecnologia, infrarosso, guardiamo delle notte. Quindi ci sono anche concezioni dello spazio, del tempo, della morfologia del territorio, dell'orgoglio, no? Dell'identità, che rendono questo mondo nostro abitato di tanti ricercatori di purezze identitarie e comunitariste. Però nessuno oggi in grado di proporre un'ipotesi praticabile che rende veramente le dignità delle persone al centro dei nostri ragionamenti. Questo è il grande problema etico di questo periodo qua. Mi fermo qui. Grazie. domande, considerazioni? Ho parlato troppo? Lungo? Mi avete seguito perché io, come dicevo l'altra volta, ho un'edizione mesopotamica, perché ognuno ha il suo ritaggio, no? Quindi per cose cerco di... C'è una via d'uscita, cioè sembra che sia una conclusione abbastanza pessimistica. In generale, una conclusione pessimistica. Cioè non... La mia? O no? Non dico forse rassegnata, realista. Ma insomma... Forse realista. No, sì. Sì, sarà anche realista, però voglio dire, si dice che prima o poi tutte le guerre finiscono, no? Questa sembra non finire mai, perché finisce per 5 anni, poi riprende. Adesso troveranno un sistema per chiudere questa cosa, poi tra 3 anni ricomincia in un altro modo. Sì, sì, ma ci saranno altre, magari anche in giro. Si sente. Allora, non è un... Il mio invito, perché poi sono anche un ricercatore di senso, io evito di dare soluzioni, ricette, non sono, cerco di evitare di essere saputello, sinceramente. Io, il mio tentativo è di conversare, socializzare delle informazioni che ho in base alle mie letture, in base alle mie conoscenze, ma in base alle mie naturalmente sensibilità. Quindi... in questa fase storica, a mio parere, modestissimo, vive in Europa da molti anni. L'unica area del mondo che ha un benessere materiale, possibilità di dibattito, stiamo parlando, di trovarci, di possibilità di dibattito e soprattutto di mobilitarsi come società civile e anche di votare. Allora, una carta importante da giocare, se si riesce a mobilitare effettivamente una maggioranza delle popolazioni o dell'Europa occidentale per dire qualcosa, il rispetto della Costituzione italiana, il rispetto del statuto delle Nazioni Unite. No? Questo ce l'hanno perché altri popoli non hanno questa fortuna, non hanno questa opportunità, non hanno a disposizione questa cosa qua, perché molti popoli si trovano ad avere il despote che li governa a modo suo. E i paesi occidentali hanno la possibilità di leggere qua, no? Molti giornali, molte riviste che parlano di molti temi con diversi approcci. Questo è un patrimonio importante. A mio parere viene utilizzato troppo poco. Io sono nato in un paese, era governato, oggi non so come definirlo, era governato da un despote. Però erano pochi anche lì a occuparsi delle questioni legate alla propria vita. Arriva qua, anche in paesi dove c'è la libertà, la democrazia, i diritti umani, la disponibilità, anche qui sono pochi. Allora vuol dire che ci sono delle risorse che non vengono utilizzate. Mi sono chiesto sempre, come fa un cittadino francese, inglese, francese sopra libertà, egualità, fraternità, no? Come fa sempre andato a governare governi che in giro per il mondo non hanno rispettato le libertà, libertà, egualità e fraternità? È una domanda. Forse perché apparteniamo ad aree privilegiate. E chi è disponibile a rinunciare ai suoi privilegi? Anche personalmente, no? È una domanda. Cioè, non è facile. Quindi io dico, oggi un'alleanza mondiale che parte dai popoli europei, coinvolgendo gli altri per un disegno, alleanza della società civili. E la società civili in Europa occidentale hanno molte più risorse, molto più strumenti di... Un siriano che fino all'altro giorno era, no? E oggi non so cosa sarà. Questo è un impegno, perché altrimenti la Costituzione italiana, chi l'ha scritta? L'ha scritta il rappresentante di una società civile che è uscita dopo la Seconda Guerra Mondiale, trattare democristiani, repubblicani, liberali, per arrivare ad una Costituzione una delle più avanzate del mondo, considerate. Però, chiaro, però c'era una società civile organizzata, una società civile attiva, una società civile dinamica. Oggi purtroppo viviamo in un periodo storico. Il paese occidentale più grande, con il presidente più importante del mondo, la prima volta che ha aperto bocca ha detto che vuole prendersi Panama, il Canada, la Groenlandia. Allora voglio dire, stiamo andando nella direzione opposta, non è che... Allora, infatti, signore... Lei, come si chiama lei? Io Massimo. Lei è il Massimo. Allora, no, perché mi ha fatto ricordare i disegni, perché noi spesso... Io spesso, vedete che anche quando tratta temi di attualità, non perché diventa una conversazione, quell'altro ha fatto, noi abbiamo fatto, noi... Invece capire l'attualità ci vuole essere consapevole dei processi. Noi ci occupiamo di questi micro atti che vengono. Vedete, la stampa, il giornale La Stampa. Un giornalista di nome Giordano Stabile, pagine 6 della Stampa, prima piano, all'inizio del disastro, della tragedia in Israele, in Palestina, quindi dopo il 7 ottobre, scrive questo articolo nel 23 ottobre. Ecco, cita un generale americano di nome Wesley Clark, che nel 2003, quindi 20 anni fa circa, Wesley Clark a Baghdad, un giornalista che deve a lui allora, e che cosa state per fare, come siete qua, quali i prossimi passi? 2003, agli Stati Uniti, il bello, che dicono le cose, Trump lo dice, ma lo dicono anche gli altri, i libri, sono persone da questo punto di vista aperti, chiari. Wesley Clark dice: noi siamo qua a Baghdad che abbiamo un progetto di abbattere l'abbattimento di 7 stati. 2003. Quali sono? Dopo l'Iraq cosa è venuto? La Libia? Lo Yemen, Sudan, Siria e Libano, giusto? Tutti abbattuti, siamo 6, giusto? Cosa rimane? Lo dice. Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan e poi finire con l'Iran. 2003. Quindi questa è la strategia. No? La strategia. Allora finisco con queste, a proposito di pessimismo, questo mondo arabo afflitto, perché poi questo qui per fortuna la guerra prima mondiale è finita nel 1919, la prima guerra in quell'area lì continua ancora, in altre versioni, in altre modalità. Allora, questo un grande pensatore, Samir Kassir, diciamo, l'anima, rappresenta l'identità araba, perché il papà palestinese, la mamma siriana, ha vissuto in Libano, perché sono tutte aree contigue, gli stessi parenti, sono imparentati questi paesi qua, noi li chiamiamo oggi Libano-Palestina, sono imparentati. E cristiano ortodosso, scrive questo bellissimo libro, L'infelicità araba, è stato pubblicato nel 2002 qua ad Einaudi, credo. Scrive questo per dire anche quale il pensiero, il sentimento degli arabi. L'impotenza. Innegabilmente è oggi la cifra dell'infelicità araba. Impotenza ed essere ciò che si ritiene di dover essere. Impotenza di agire per affermare la propria volontà di esistere, se non altro come possibilità di fronte all'altro che ti nega, ti disprezza e adesso nuovamente ti domina. Impotenza a reprimere la sensazione di essere ormai un'entità trascurabile sullo scacchiere planetario, dove sullo scacchiere planetario, quando è giocano a casa tua, quando giocano a casa tua, il gioco si fa a casa tua e la partita si fa a casa tua, un sentimento per la verità irreprimibile, da quando la guerra in Iraq ha riportato l'occupazione straniera in terra araba. È come un contraccolpo, ha trasformato l'epoca dell'indipendenza in una semplice parentesi. Molti paesi arabi hanno conquistato l'indipendenza nella metà degli anni 50, negli anni 90 l'hanno persa. Questo è il sentimento che abita nel cuore e nella mente di 400 milioni di arabi. Questa è la realtà. Con questo, per rispondere al signore gentile Massimo, che la situazione non induce, no? Perché c'è troppo risentimento, troppo rancore, troppa violenza, per cui è importante oggi è rendersi consapevoli di questa fatta qua e agire di conseguenza. Qual è la nostra energia? In Italia abbiamo il Papa, abbiamo un grande movimento civili, sociali, che hanno tradizione, no, di impegni su questi temi. Sono sufficienti? Andiamo alla ricerca di questi in giro per il mondo? Quindi oggi è una fase di ricerca di anime in grado di elaborare una nuova prospettiva per questa umanità afflitta che porta ancora, come dicono i cattolici, il peccato originario, il peccato originale. E quindi questo è. Grazie di nuovo. Thank you.